ad alta voce. Valerio Aprea legge Alberto Moravia. Impataccato. Era venerdì 17, ma non ci feci caso. Appena vestito, presi le 50.000 lire che dovevo a Ottavio, tutte in biglietti da 5, le cacciai nella tasca dei pantaloni e uscii di casa. Le 50.000 lire erano la parte di Ottavio per un affaruccio di gioielli falsi che avevamo fatto insieme, e io ero già in ritardo di una settimana. Aspettando la circolare mi venne la stizza al pensiero di dover dargli quei soldi che avrebbero invece fatto tanto comodo a me. Lui non aveva arrischiato nulla, si era limitato a fornirmi la merce, da quel bravo orafo che era. Io invece avevo fatto tutta la fatica, esponendomi per giunta al pericolo della galera. Fossi stato preso in castagna, non avrei certo fatto il nome suo e sarei andato in prigione, mentre lui sarebbe rimasto nel suo negozietto a lavorare di fino dietro la vetrina, una lente incastrata nell'occhio. Questo pensiero mi avvelenava. E salendo in circolare mi venne addirittura l'idea di non dargli niente. Ma voleva dire non poter più ricorrere a lui e alla sua bravura. Voleva dire cercarmi un altro Ottavio, forse peggiore di questo. E poi, per un uomo di coscienza come me, voleva pure dire mancare di parola. Sarebbe stata la prima volta che lo facevo in vita mia. Tuttavia, quei denari proprio mi dispiaceva darglieli. Tenevo la mano in tasca e ogni tanto li palpavo e li accarezzavo. Erano sempre 50.000 lire e quando gliele avessi date avrei fatto il mio dovere, ma avrei avuto 50.000 lire di meno. Mentre così mi rodevo, mi sentii urtare al gomito. «Attilio, non mi riconosci?» Era Cesare, un disperato numero uno, che avevo conosciuto nel dopoguerra ai tempi della borsa nera delle sigarette. Doveva essere rimasto, come si dice, al carissimo amico, ossia al punto di partenza, più disperato che mai. Aveva un pastrano scolorito e rattoppato, abbottonato fino al mento, ma non tanto che non si scorgesse il collo nudo, senza cravatta né colletto. A testa scoperta, coi capelli arruffati, che mi parvero pieni della lanugine e della polvere che si raccatta dormendo nelle baracche. Dico la verità, faceva paura. Risposi imbarazzato. «Cesare, che fai?» disse. «Scendiamo un momento, dovrei parlarti». Non so perché mi balenò a queste parole la speranza di trovare il modo di rifarmi di quei denari che dovevo a Ottavio. Gli feci cenno che stava bene e mi avviai verso l'uscita. Si fermò e noi scendemmo. Eravamo alla stazione, davanti ai giardinetti, dalla parte di via Volturno. Cesare mi portò in un punto solitario, qui si fermò e biascicò. «Avresti mille...» «Mille che cosa?» «Mille lire. Sono due giorni che non mangio», risposi. «Bravo, caschi proprio bene. Stavo appunto pensando alla maniera migliore di spendere mille lire». Lui capì subito e disse, mogio. «Allora... se non vuoi prestarmele, almeno aiutami». Gli domandai con precauzione che specie di aiuto desiderasse, e lui, guarda un po' qui. Abbassai gli occhi e vidi che teneva nella palma della mano una moneta dorata, con qualche incrostazione terrosa e una figura di donna nel mezzo. «Aiutami a vendere questa moneta romana, poi faremo a mezzo». Lo guardai, e quindi non potei fare a meno di scoppiare in una gran risata. Non sapevo neppure io perché. «Pataccaro! Pataccaro! Sei finito Pataccaro! Oh, Pataccaro!» Più ripetevo Pataccaro e più ridevo. Lui intanto mi guardava, più brutto che mai, la moneta in mano. Disse finalmente: «Si può sapere perché ridi?» Risi ancora un bel po' e poi risposi: non se ne parla neppure. Perché? Perché, caro mio, anche i bambini ormai conoscono le patacche. È passato il tempo delle patacche. Mortificato, si rimise la moneta in tasca, dicendo: allora almeno prestami 200 lire. In quel momento mi ricordai di nuovo di Ottavio e del denaro che dovevo dargli, e mi tornò la speranza di rifarmi. Dopotutto, ogni giorno, si può dire, si leggeva nei giornali di gente che ci cascava nel trucco della patacca. Perché non dovevamo riuscirci proprio noi? Dissi a Cesare: guarda, mi fai pena, voglio aiutarti, ma ho un patto. Casomai ti acchiappano, tu non mi conosci. Sono davvero un signore a cui piacciono le monete romane. Ci ho anche i soldi, guarda. Forse per vanità cavai di tasca il pacchetto dei biglietti e glielo sfogliai sotto il naso. Ci ho i soldi e tu, in tutti i casi, sei un truffatore. E io colui che avrebbe potuto essere truffato, intesi? Lui disse subito con entusiasmo: intesi! Proseguì, ormai sicuro di me: vediamo intanto di metterci d'accordo. Che prezzo vogliamo fissare? 30.000. No, 30.000 sono poche. 60.000 almeno. E di queste, 40.000 e prendo io. E 20 tu, va bene? Veramente avevamo detto la metà? Allora non se ne fa nulla. 20.000 va bene. Vediamo adesso come la presentiamo, continuai. Tu sei un manovale. Lavoravi qui, nello sterro della stazione nuova. Hai trovato la moneta e l'hai nascosta. Siamo intesi? Intesi. E quanto alla moneta, io intervengo e dichiaro che è un pezzo di gran valore. Bisogna trovare però il nome di un imperatore romano. Chi diciamo? Nerone. No, Nerone no. Lo vedi come sei ignorante? Nerone, a Roma, chi non lo conosce? È il primo che viene in mente. Un altro. Cesare, perplesso, si grattò il mento e poi disse: non conosco che Nerone, gli altri non li conosco. E invece, dissi, sono stati tanti, almeno un centinaio. Vespasiano, per esempio. Quello dei Vespasiani, non lo conosci? Ah, sì, Vespasiano. Ma Vespasiano non va bene. Potrebbe far ridere. Vediamo piuttosto che c'è scritto sulla tua moneta. Dammela un po'. Lui me la diede e io guardai. C'erano delle lettere, ma confuse, e non si capiva nulla. Dissi con improvvisa ispirazione: Caracalla, quello delle terme. Hai capito? Caracalla. Sì, Caracalla. Allora, conclusi, noi facciamo così. Ci separiamo, pur restando non tanto lontani l'uno dall'altro. Il tipo lo cerco io. Quando mi senti tossire, vuol dire che è lui e l'abbordi, va bene? Non dubitare. Così ci separammo. Cesare prese a passeggiare in su e in giù per i giardinetti e io mi misi in osservazione sul marciapiede. In quel luogo, come sapevo, capitavano, venendo dalla stazione, tutti i provinciali dei dintorni di Roma, gente rustica e ignorante, ma con il portafogli gonfio di biglietti. Gente che crede di essere furba, e non dico che al paesello, tra le pecore e le caciotte, non lo sia, ma a Roma la loro furbizia è ingenuità. Ne vidi parecchi, quali coi fagotti e con le valigie, quali soli, quali con le donne. Ma per un motivo o per l'altro non andavano mai bene. Intanto, per ingannare l'attesa e darmi un contegno, tolsi dall'astuccio una sigaretta e l'accesi. Non so perché, alla prima boccata, il fumo mi andò di traverso e tossii. Subito, quell'imbecille di Cesare, filò dritto verso un giovanotto biondo che da qualche momento si aggirava sotto gli alberi e lo toccò al gomito. La scena era stata così rapida che non feci a tempo a intervenire. Mentre Cesare parlava, esaminai il giovanotto. Era di piccola statura, vestito da campagnolo, con la giacca a vento dal bavero di volpe, i pantaloni di velluto marrone alla zuava, gli stivali di vacchetta gialla infangati. Aveva il viso bianco, schiacciato, aguzzo, baffetti biondi sotto il naso pizzuto, testa rapata. Pareva furbo, ma per fortuna pareva anche rustico. Ascoltava Cesare con curiosità, forse con interesse. Finalmente Cesare mise la mano in tasca e cavò la moneta. Ormai era giunto il mio momento e capii che non potevo più tirarmi indietro. Il giovanotto guardava la moneta, rigirandola. Cesare gli parlava. Mi avvicinai e dissi con tono autorevole: «Scusate l'indiscrezione, quella non è forse una moneta romana?» Cesare mi guardò inebetito. Il giovanotto disse a fior di labbra: «Pare». Dissi: «Permettete che la guardi? Me ne intendo, sono antiquario. Permettete». Il giovanotto mi porse la moneta e io l'esaminai a lungo, fingendo curiosità. Poi mi voltai verso Cesare e gli domandai severo: «Ma tu, come l'hai avuta?» Bisogna dire che Cesare, così stracciato e sporco, era intonato alla sua parte. Piagnucolò: «Che volete che vi dica? Sono un poveretto!» «Via!» dissi. «Non aver paura! Mica sono un questurino in borghese! Con me puoi parlare! Come l'hai avuta?» «Sono manovale», rispose Cesare, sempre in tono lamentoso. «L'ho trovata mentre lavoravo allo sterro, qui, della stazione. Forse voi potete dirmi quanto vale». «Valere, vale di certo. È una moneta dell'imperatore Caracalla». «Ecco, bravo, Caracalla», disse Cesare. «Qualcuno mi aveva fatto questo nome». Era giunto il momento delicato, decisivo. Brusco domandai: «Quanto?» «Quanto che cosa?» «Quanto vuoi?» «Datemi 60.000 lire». Era la cifra combinata, ma uno meno stupido di Cesare avrebbe preparato il colpo, magari rispondendo: «Fate un po' voi». Dissi tuttavia, sempre brusco, come chi non vuol lasciarsi sfuggire l'occasione: «Te ne do 50.000, va bene?» Guardavo intanto il giovanotto e credetti di capire che aveva abboccato. Infatti propose: «Io te ne do 10 di più. Vuoi darmela?» In tono dolce, persuasivo, insinuante. Cesare levò gli occhi verso di me e poi disse, con giusta intonazione mortificata: «Lo vedete? C'era prima lui. Mi dispiace. Debbo darla a lui». Il giovanotto si mordeva i baffi biondi guardandoci. Riprese: «Però i soldi qui non ce li ho. Vieni con me e te li do». «Dove?» «In questura!» Cesare sbarrò gli occhi, spaventato, tramortito. Capii che dovevo intervenire con la massima decisione e, facendomi in mezzo: «Un momento, con che diritto? Chi siete? Siete un agente?» «Non sono un agente, no», rispose quello, beffardo. «Ma non sono neppure così scemo come voi due credete. Volevate rifilarmi la patacca, eh? Venite con me in questura, lì ci spiegheremo meglio». Cesare mi guardava, disperato. Ebbi un'ispirazione e dissi: «Voi vi sbagliate. Può darsi che all'apparenza lui sembri un truffatore, io il compare e voi il merlo. Ma in realtà io non lo conosco. Voi non siete un merlo e io sono veramente un antiquario. E la moneta è buona, tanto è vero che la compro subito». Mi voltai verso Cesare e gli domandai: «Da qua la moneta e para la mano». Lui ubbidì e io, una sull'altra, gli contai in mano le 50.000 lire di Ottavio. Poi dissi al giovanotto: «Questo per regola vostra. Imparate a distinguere la gente onesta dai truffatori. Imparate a far le differenze». Ma quello rispose ostinato: «E chi mi dice che non siete d'accordo? Ora che avevo pagato sul serio la patacca, mi sentivo aggressivo, lo odiavo. Dissi, alzando le spalle, «D'accordo noi. Si vede che vieni dalla campagna. Di mozzarelle te ne intenderai, ma di gente onesta no. Ma torna al paese, torna!» «Oh!» fece lui arrogante. «Con chi credi di parlare? Non alzar la voce, bullo! Il bullo sei tu e anche becca morto!» Ero inferocito, senza motivo, forse perché ormai sentivo d'aver ragione. Lui rispose, «Ma scalzone!» E io mi avventai contro di lui, facendo il gesto di afferrarlo per il bavero de volpe. Intanto però si erano radunati i soliti sfaccendati che ci divisero, mentre io mi dibattevo e gridavo, «Ma va a vendere le caciotte, cafone, ignorante, contadino!» Lui, alzando le spalle, si allontanò tra la folla, e io allora mi voltai per cercare Cesare. Mi si gelò il sangue, vedendo che non c'era. La gente, dopo averci divisi, se ne andava per i fatti suoi, e Cesare non si vedeva, né sul piazzale della stazione, né per i giardinetti, né dalla parte di Piazza delle Sedra. Era scomparso, e con lui le 50.000 lire. Ebbi un gesto di disperazione così violento che qualcuno mi domandò, «Si sente male?» Basta, tutto tremante per la rabbia, sudato, trafelato, sconvolto, feci di corsa il breve tratto di strada dal piazzale a via Vicenza, dove stava il negozio di Ottavio. Lo trovai, al solito, dietro la vetrina, grasso, trascurato, la barba lunga, che esaminava non so che cosa con la sua lente di orafo. Entrai e, ricomponendomi alla meglio, gli dissi, «Guarda, Ottavio, che i soldi non posso darteli. Se vuoi, puoi prendere in cambio questa moneta romana.» Lui la prese con calma, senza guardare, se l'avvicinò all'occhio, l'esaminò un momento solo e poi cominciò a ridere, come per conto suo. Quindi si alzò e, sempre ridendo e battendomi la mano sulla spalla, disse, «Pataccaro, pataccaro, oh, sei finito, pataccaro!» Valerio Aprea ha letto Alberto Moravia, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Paolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it